caro Vasquez, di cosa vogliamo parlare oggi? Sei venuto in anticipo addirittura, eh? Non c'avevo niente da fare. Ma il giornalista bravo arriva in orario. Ah, 20:30? Sì. Ah, va bene, allora, i film di questa... In realtà ti avrei dovuto dire sono io, sono già qui. Questa è la risposta vera. Prego, cinema e cellulite e cellulite. Allora, no, non posso cominciare ancora a affrontare i film della settimana perché aspetto il mio esimio collega. Però posso dire che ho cominciato a vedere i mondiali di calcio perché il cinema si annida nelle cose più strane. Ma cioè, quello in 3D? No, ancora devo andare a vedere il 3D perché hanno fatto poche partite. No, e ancora non l'hanno fatto. Vado a vedere. Ma allora ha ragione l'ascoltatore fegatato. lui faceva riferimento all'altro, non certo a me. Viva la libertà di informazione. Dicevo. Ma amarlo nella buona e nella cattiva sorte. Poi, grande Prince, come rispondi tu ai simpatici? Non lo fa nessuno, con quel tono mi fai morire da sempre. Ancora grande complimenti. Ma rispondiamo perché, giustamente, noi vogliamo mantenere, come dire, stretti a noi i nostri ascoltatori, perché noi li amiamo. È stato bello come ho detto, a noi! No, come l'hai detto? Quello lo dice l'ascoltatore. Allora, dicevi, sei visto i mondiali? No, dicevo che poi il cinema si annida nelle cose più strane. Cioè, io mi sono visto, a parte che volevo vedere per curiosità la presentazione, l'apertura della manifestazione, sì. Ed è stata, diciamo, abituati, no, a quella cinese che c'è stata, sai? E c'è stata una povertà veramente allucinante. Stavano in fila storti, è stato terribile. Vabbè, quelli, è stato. Noi ci siamo abituati bene con i cinesi. Mi stanno simpatici, penso. No, perché da poi la simpatia è tutto, cioè, indipendente da queste cose. La cosa che mi piace di questi mondiali è che, come spesso capita, la tecnologia migliora, diventa più sofisticata le riprese. Ci sono un sacco di riprese straordinarie. Cioè, in particolare, non so se hai notato quel rallenty che già avevano sperimentato in Champions League, ma che qui usano sempre, quel rallenty molto molto rallentato che si intravede quasi il frame per frame. No, quello hanno, un tipo di rallenty molto da vicino, molto molto lento, che è molto filmico, veramente sembra di vedere un film, e niente, bellissimo, sono veramente delle grandissime riprese ci stanno. Caro Vasquez, di cosa vogliamo parlare oggi? Sei venuto in anticipo addirittura, Non c'avevo niente da fare. Ma il giornalista bravo arriva in orario. Ah, 20:30? Sì. Ah, va bene, allora, i film di questa... In realtà ti avrei dovuto dire sono io, sono già qui. Questa è la risposta vera. Prego, cinema e cellulite e cellulò. Allora, no, non posso cominciare ancora a affrontare i film della settimana perché aspetto il mio esimio collega. Però posso dire che ho cominciato a vedere i mondiali di calcio perché il cinema si annida nelle cose più strane. Ma cioè, quello in 3D? No, ancora devo andare a vedere il 3D perché hanno fatto poche partite. No, e ancora non l'hanno fatto. Vado a vedere. Ma allora ha ragione l'ascoltatore fegatato. lui faceva riferimento all'altro, non certo a me. Viva la libertà di informazione. Dicevo. Ma amarlo nella buona e nella cattiva sorte. Poi, grande Prince, come rispondi tu ai simpatici? Non lo fa nessuno, con quel tono mi fai morire da sempre. Ancora grande complimenti. Ma rispondiamo perché, giustamente, noi vogliamo mantenere, come dire, stretti a noi i nostri ascoltatori, perché noi li amiamo. È stato bello come ho detto, a noi! No, come l'hai detto? Quello lo dice l'ascoltatore. Allora, dicevi, sei visto i mondiali? No, dicevo che poi il cinema si annida nelle cose più strane. Cioè, io mi sono visto, a parte che volevo vedere per curiosità la presentazione, l'apertura della manifestazione, sì. Ed è stata, diciamo, abituati, no, a quella cinese che c'è stata, sai? E c'è stata una povertà veramente allucinante. Stavano in fila storti, è stato terribile. Vabbè, quelli, è stato. Noi ci siamo abituati bene con i cinesi. Mi stanno simpatici, penso. No, perché da poi la simpatia è tutto, cioè, indipendente da queste cose. La cosa che mi piace di questi mondiali è che, come spesso capita, la tecnologia migliora, diventa più sofisticata le riprese. Ci sono un sacco di riprese straordinarie. Cioè, in particolare, non so se hai notato quel rallenty che già avevano sperimentato in Champions League, ma che qui usano sempre, quel rallenty molto molto rallentato che si intravede quasi il frame per frame. No, quello hanno, non l'ho visto, hanno un tipo no. di rallenti molto da vicino, molto molto lento, che è molto filmico, veramente sembra di vedere un film. E niente, bellissimo, bellissimo. Sono veramente delle grandissime riprese ci stanno. Io andrò a vedere il Brasile il 20, credo. In Brasile. 3D? Sì. Andrò a vedere il Brasile in 3D. Che non è la partita, adesso non mi ricordo con chi, ma non è la partita col Portogallo, purtroppo. Quindi a questo potremmo anche far riferimento alla musica, visto che adesso faranno dei concerti al cinema. Cioè esatto, dirette, quello pure non vorrei. Io beh, ho visto. Credo il Gods of Metal o qualcosa del genere. Ah, però. Potrebbero farlo anche in 3D o no? Certo, tutto il rispetto per i metallari, perché la mia ragazza poi appartiene alla categoria, però è chiuso in una sala con i metallari. No, avrei un po' paura. No, ma perché paura? Lo sai che tu pensa, chi ascolta metal, leggevo una statistica qualche anno fa, i ragazzi che ascoltano metal sono i più intelligenti al mondo. Davvero? Certo. Beh, ci sarà per quale criterio? Comunque è strano, comunque, a prescindere che una categoria perché sia. Perché il metal favorisce il fosforo, credo. No, però hanno fatto una statistica seria, ma veramente seria, a Yale, credo. Che chi ascolta metal è più intelligente rispetto ad altri che ascoltano altre musiche. Incredibile. Allora, film. Una ricerca finanziata dagli Iron Maiden. Da chi era finanziata la ricerca? Vabbè. No, film non posso finché non arriva quel ragazzo che io faccio fare, a cui faccio fare apprendistato, quel ragazzo che viene qua ad apprendere il mestiere. Allora, come si chiama? Aro, Amo. Esatto, Amo. Qualcosa del genere. No, mi ha chiesto di non iniziare finché non arriva lui. Okay. Vabbè, quindi che facciamo io? Di che parliamo? Vabbè, intanto ci intratteniamo. Incassi della settimana, vedi? Un sacco di argomenti. Incassi della settimana. Incassi sì. della settimana. Allora, innanzitutto nessuno sta andando al cinema, come era prevedibile nessuno va al cinema per A, motivi di estate, cioè di caldo, i primi caldi, B, motivi di calcio, chiaramente, si prediligono i mondiali di calcio, infatti escono una serie di film tra il piccolo e il mai sentito, però è primo un film molto curioso, cioè The Hole in 3D. È un film, ne abbiamo parlato la volta scorsa, un film horror di quegli anni 80 girato da un regista degli anni 80, cioè Joe Dante. È un film che, se appunto vi eravate innamorati di quel tipo di cinema giovanilistico, cioè con americano, hollywoodiano, con teenager, è perfetto, fa per voi. E niente, è anche in 3D ed è un buon 3D, non eccezionale, però un buon 3D. Secondo, come incassi, con ancora meno di The Hole in 3D, Sex in the City. Anzi, per darvi un'idea, The Hole in 3D, che prima ha fatto 400.000 euro, e solitamente in mezzo all'anno un film primo al primo weekend uscita va maluccio se fa 1.000 euro. Questo ha fatto 400.000, per dire quanto in pochi vanno. No, scusa, se fa 1 milione di euro, scusate. Ma parli del film, scusami? No, dicevo, d'inverno, se un film fa 1 milione di euro al primo weekend è andato male. Qua il primo, quello che è incassato di più questa settimana, è stato 400.000 ha fatto. Quindi per darvi l'idea di quanto poco si vada in questo periodo, e farvi anche un po' sentire in colpa e farvi andata al cinema. Esatto. Anche se non c'è niente, e c'è anche se poi non c'è, non so che andrete a vedere, c'è poco e niente. No, fammi guardare questa settimana. No, questa settimana esce qualcosa di bello, e poi allora, ne parliamo. Ma come mai ogni volta che si parla della nostra maggioranza e dei suoi membri vi si dà dei faziosi quando dite dati di fatto senza interpretazione? Che vuoi che ti dica? Nervo scoperto, perché ne stanno facendo di cotte e di crude, e chi lo sa, anche se dobbiamo dire, anche quando c'era l'altra maggioranza, non gli abbiamo risparmiato delle belle critiche, anzi. Attenzione, però qui c'è gente che... Prego, no, dimmi. No, hai dato una comunicazione adesso... Chi ascolta me dalla più ferro? Mi è arrivata adesso una comunicazione dal mio ragazzo di bottega Lo che gli si è rotto il motorino e quindi non potrà venire. Secondo me gliel'ha tirata, perché non può essere. Ho fatto di tutto, sono venuto prima, ho fatto di tutto. E non vuoi la concorrenza, che lui sì che è un critico cinematografico. Non... Ma vabbè. Vai, stai dicendo degli incassi. Stavo dicendo degli incassi, poi tanto passiamo subito ai film, che non venendo più. Degli incassi, dicevo, sì, il secondo, con poco meno di The Hole 3D, è Sex in the City 2, film discutibile, che però comunque ha tutto un suo pubblico e calcolando il periodo sta andando bene. Terzo, Prince of Persia, che sta andando decentemente, sempre calcolando il periodo. Ah, l'ho visto, eh. L'hai gradito? No. Manco io. Una cosa imbarazzante. Che ma è come tu, concordi con me col fatto che il brutto è che si vede che non è. È proprio finto. È il massimo del finto. Sì. Infatti, quando c'è un momento in cui sono nel deserto, e quello è l'unico momento in cui dici: ah, il deserto. Una cosa terribile. Terribile. Poi c'è So 6, in quarta posizione. In quinta c'è Tata Matilda, il grande botto, che mi hanno detto essere un film molto molto molto carino. Io non ho potuto vedere, me ne rammarico molto. Poi Robin Hood, che è un fregnaccione. La nostra vita, Bright Star, La papessa e Il segreto dei suoi occhi, che è un film bellissimo. Questo rientra in quei film che, se volete andare al cinema ora, se non siete dei calciofili, se a voi il calcio non ne frega niente, potete andare a vedere Il segreto dei suoi occhi. Molto bello. Ma entriamo direttamente nel vivo, perché non venendo l'altro, che la verità è che l'altro c'ha paura, capito? Non viene perché teme il confronto. Lo so. L'altro fa bene. Dicevo, possiamo passare direttamente così, senza colpo ferire, alle uscite della settimana. Questa settimana esce un film attesissimo, non atteso di più, che è A-Team. Ah, l'hai visto? Fanno uscire sventatamente, secondo me. Sotto mondiali. Esatto, secondo me è una cosa molto sventata. Perché? La questione è questa: se avete visto il film i trailer del film sulle team, probabilmente anche a voi sono cascate le braccia a terra. Nel senso che da quello che si capisce del trailer, dalle scelte di casting, cioè da chi sono gli attori che devono interpretare i vari P.A. Baracus, Sberla, Hannibal Smith e Murdoch, sembra veramente un disastro, un flop, un film destinato a un flop. In realtà è una sorpresa incredibile. Guarda, io ero andato veramente con le peggiori aspettative possibili. E invece? Ma invece sono rimasto stupidissimo, anzi. Addirittura, ma ne avevi parlato già malissimo. Esatto, mi ero portato avanti col lavoro, cominciando a parlarne male, perché pensavo veramente sarebbe stata un'ecatombe. Da quello che si vede dal trailer, sembra una vaccata proprio. Cioè, nel trailer si vede questa scena in cui loro escono da un aereo in volo, escono con un carro armato. Una cosa proprio, dice, vabbè. E invece il film è così. Cioè, è tutto che escono da aerei con carri armati, volano sopra, è cartunesco, cioè è proprio iperbolico, esagerato. Ma è molto bello. Cioè, è un film che tira fuori il tredicenne che è in te. Che lo prende e lo tira fuori. Ma con gusto, non me l'ha fatta bene. No, innanzitutto è diretto. Questo è mia, faccio ammenda. Stupidamente non ero andato a vedere chi era il regista. È diretto da un regista molto abile, si chiama Joe Carnahan, e ha diretto già un film che non ha avuto molto successo, ma potreste aver visto, che è Smoking Aces, che era un film con Alicia Keys, che non era malaccio. Lui è bravissimo e dirige questo film, vi ripeto, fatto per tirar fuori il tredicenne che è in voi, in maniera molto abile. Il film scorre bene, forse alla fine ha qualche lungaggine, ma per il resto è diretto molto bene. Sono molto bilanciate le parti umoristiche e d'azione, perché è un film molto da ridere, si ride tantissimo, oltre ad esserci appunto tantissima azione. E innanzitutto racconta la storia di come l'A-Team è diventato l'A-Team, quindi si parte da che non si conoscono. Finalmente. Tutta quella parte che raccontano nella sigla, solitamente, no? Esatto. A me piace tanto vedere il pre. Esatto, come sono diventati l'A-Team. Infatti finisce con la sigla, finisce con se avete bisogno d'aiuto. E si inizia, che vi dico proprio all'inizio. Hannibal Smith e chiaramente fanno tutti parte dell'esercito. Hannibal Smith e Sberla si conoscono. Poi dopo vi spiegherò perché c'è questa cosa molto interessante. Loro sono gli unici due che si conoscono, sono amici. E Hannibal Smith, che chiaramente è la mente del gruppo, raduna gli altri membri, trova Baracus, si fa intrigare dalla personalità di Murdoch, del matto nel manicomio. Infatti c'è la classica scena dei team dell'evasione di Murdoch dal manicomio, che è straordinaria, è bellissima. E c'è anche sono un sacco di classiche scene. C'è la classica scena dell'inseguimento in elicottero, c'è il momento in cui stanno contro il generale sudamericano che vuole rovesciare il governo del suo stato, che era un'altra cosa tipica di quel telefilm. Ed è tutto appunto la storia, come viene raccontato solitamente nella sigla, di come li hanno incastrati, in sostanza. Di come li hanno accusati di un crimine che non avevano commesso. Loro cercheranno di dimostrarsi innocenti in tutto il film. L'unica vera grande diversità, a parte il tono esagerato di ogni cosa, insomma, quella, non, quella scena che si vede appunto nel trailer, che escono col carro armato dall'aereo, poi procede con loro che per atterrare in un lago e quindi non morire sparano col cannone del carro armato per direzionarsi, che a livelli alti, però ha fatto molto bene, fatto come se il regista fosse seduto accanto a voi e ridesse con voi di queste cose per divertirsi. La grande differenza è Sberla. Allora, Sberla è l'unico personaggio diverso, perché questa è una scelta che io approvo, perché nel passaggio da serie a film non poteva rimanere tutto identico, nel senso che poi un film ha un funzionamento diverso rispetto a una serie e serviva un vero protagonista, cioè una persona attorno alla quale poi si sviluppi la storia. Questo protagonista vero è Sberla. Sberla è parte da come lo conosciamo, cioè un po' fichetto, dandy, donne, rimorchio, però poi è l'unico di quelli del gruppo non solo ad avere un'evoluzione durante il film, cioè alla fine non è lo stesso dell'inizio, perché comunque gli succederanno delle cose. L'unico ad avere una storiella d'amore, perché ci sta Jessica Biel nel film, stupenda. Sempre un bel personaggio, no? Questo è quello facevo riferimento. Dicevo, è l'unico ad avere una storia d'amore, è l'unico ad avere rapporti complessi, cioè gli altri sono come era nel telefilm, delle macchiette, comunque il matto, il forzuto scemo e la mente. Lui invece ha una personalità più complessa. È fatto benissimo, è recitato molto molto bene da Bradley Cooper, che già stava in Una notte da leoni, era il bello di Una notte da leoni, ed è bravissimo, devo dire, in questo film. È recitato molto molto bene, anche chi fa l'attore che fa Martok, che si chiama Shartlo Copley se non sbaglio, è molto bravo. E niente, donano al film un'incredibile leggerezza, un incredibile senso del divertimento. E più che altro una cosa stranissima, che devo dire è veramente veramente strana, è che in un film come questo, che è molto di intrattenimento, molto molto leggero, molto spensierato, c'è un attacco politico di una forza e di una violenza che devo dire io non avevo visto da anni. A chi? Alla CIA. Ma va. Allora, in questo film la CIA è ritratta peggio di come gli americani negli anni 80 ritraevano i russi. Molto peggio. Allora, sono innanzitutto tutti degli idioti dal primo all'ultimo. Tutti degli idioti. Sono tutti in malafede, inseguono tutti i propri fini, sono anche tutti gente da poco, sono vanagloriosi, hanno tutti i possibili difetti umani, sono doppio giochisti, sono... Beh, è vero. Per carità, però insomma, vengono ritratti come la più grande delle mele marce possibili. Addirittura. Tutta, ma poi ti danno proprio, ti vogliono dare l'idea che sono tutti così dal primo all'ultimo. Cioè, che non è che sai, è uno. Una cosa veramente impressionante. Che... Oh, stamattina Boris ha detto che fa schifo. Che palle, sì, che so, siete, so. Con affetto. Allora, Giacomo. Io lo so, con, che con Boris ne ho parlato, lui era molto infastidito. Ma la cosa che a me piace, e che a me piacerebbe in una radio, in una cosa, che diverse persone che parlano la stessa cosa ne parlino in maniera diversa, perché altrimenti diventa, che ne so, una sorta di dittatura mediatica. Ognuno esprime il proprio parere. Mi sembra la cosa più bella e carina e civile, no? Cioè, ovviamente. Una radio. Avete sentito gli argomenti di Boris, ora sentite le argomentazioni mie, vedrete. No, Boris non ne avevamo parlato, poi lui poi, un po', devo dire, adesso mi avventuro in un terreno spinoso, cioè parlare delle opinioni di un altro. A lui solitamente queste cose tendono un po' a non piacere, mentre invece a me sono un po', mi godo un po' di più con questi film che tirano fuori il tredicenne. A lui piace, tipo Morte a Venezia, questi, questi film Via col vento, questi. No, questi poi in realtà sono quelli che piacciono a me, in realtà sono io, che è il film coreano turco. Però insomma, ma lui pensi che secondo te l'ha visto il gregge di Cunei lui? Ma glielo devo chiedere, sai? Ma telefonagli, telefoniamogli. Gli vogliamo telefonare? Telefono. Ma pure Alò, voglio sapere se pure Alò l'ha visto sto gregge. I team? O il gregge? Il gregge di Cunei. Ma telefoniamogli, telefoniamo prima Alò e poi a Boris. Sì. C'è un sacco di cose da fare proprio, vai. Che vuoi fare, Prince? Vorrà dire che parlerai di tette e di pallone invece di fare libera informazione, così li fai contenti. Avanti così. Un saluto, Sandrino. Il bello che il film sui team stamattina Boris l'ha massacrato. L'ora di Radio Rock. Stamattina Boris ha definito i team un'offesa all'intelligenza. Sono un idiota, potrebbe piacere grande. No, lo chiamiamo allora. Io mando la pubblicità e tu lo chiami. Dai. Scrive un ascoltatore a proposito dell'altro ascoltatore, diciamo che era vicino la linea del governo, come siamo un po' tutti, o no? Beh, il nostro governo. Grande Faster, mi chiedo perché chi diffonde chi difende questa gente ben poco pulita che sta al governo non abbia mai argomentato, non abbia mai argomenti, se non parlare di politica e andate a lavorare. Se solo gli spiegassero perché appoggiare certa gente con argomenti altrettanto validi di quelli che invece mettono in evidenza dei fatti, beh, potrei capire le loro ragioni, ma non lo fanno, non argomentano. Zittiscono e basta. Beh, zittiscono è una parola grossa, perché io tanto dico quello che mi pare. Però grazie Federica. Pronto? Pronto? Pronto Boris? Pronto? Pronto? Ci ha accannato. Eppure l'avevamo chiamato. Ci ha accannato. Non io so. Non ci volevo parlare con lui. Dammi un po' il telefono. Ci ha accannato. Io credo sempre al maestro Vasquez, però in effetti dovrebbero esistere parametri oggettivi per giudicare un'opera, se no diventa tutto sindacabile. Ma infatti per questo vi ascolto e vi ringrazio, forza Roma, basso Lazio. Che succede? Non raggiungibile. Ah, quindi ci ha accannato? No, probabilmente si rifiuta. È entrato in un punto dove non gli prende si più. Si rifiuta. Chiama lo. Voglio sapere se ha visto. Non riesco a trovare il numero. Tu ce l'hai? No. Non riesco a trovarlo. Mi è morto il cellulare e non riesco a trovarlo. Terribile. Secondo me lo fai apposta. Che studi si fanno per diventare critico cinematografico? Mi chiede Fabio. Anni. No, devi vedere molti film e leggere molti libri di cinema. Appassionarti alle cose che ti appassionano. Come per gli esperti di musica. Esatto. Che non capiscono niente. Allora, se hai un caricatore per il mio cellulare, lo attacco e chiamiamo, se no. Caricatore? No. Vabbè, facciamo un appello. Se qualcuno ha il numero di Francesco Locci, lo scrive via SMS. Grazie, oppure su Facebook, però in privato magari. No, ma riprova. Riprova. Riprova. Così mi si blocca la trasmissione. Che aveva già un ritmo altissimo. È altissimo. No, non prende purtroppo. Niente, ci ha accannato. Sarà finita la batteria pure a lui. Secondo me perché c'ha l'esclusiva con Emilio. No, però mi ha detto che gli avevo chiesto se voleva, mi ha detto di sì. No, ma mica, no, era una battuta la mia. Vabbè, andiamo avanti con il cinema. Andiamo avanti, ci abbiamo provato ad avere un contraddittorio, ma qui non c'è. Cioè, oh, hanno tutti paura di te, Esatto, ma fanno hanno bene, tra l'altro. Paura di te. Si siedono lontani al cinema da me. Ah, eccolo il numero di Alò. Ah, è proprio lui, guarda, straordinario. Vai, chiamalo. È lui stesso che manda il proprio numero. Speriamo. Però chissà chi stiamo chiamando. Chiamo. Però i blocchi e l'ascolto mi va giù. C'è un picco adesso che c'è l'ho. Ah, sei tu realmente? Va bene, adesso ti mettiamo in onda. Ma l'hai visto il gregge di Cuneo? Pronto? Pronto? Ma l'hai visto il gregge di Cuneo? Gregge di Cuneo? Di Cuneo, il grande Yilmaz Cuneo. Ha ha ha ha! Guarda, un cineasta di cui io non sapevo niente, ma mi sono fatto una cultura da quando Faster ha cominciato a chiedermi se avevo visto sto greggio di Gune. Io ho scoperto delle cose incredibili. Io non so di cosa voi stiate parlando. Io voglio sapere da te. Voglio no, perché voglio è difficile. Vorrei sapere da te. Hai visto il greggio di Gune? Io sono l'unica persona al mondo che ha visto quel film. Potrebbe essere. Potresti esserlo forse insieme a mio padre. Io non l'ho visto. Come state, ragazzi? Noi bene, lui meglio di me perché non ci sei tu. Esatto, proprio... mi si è rotta la candela del motorino. Sì, vabbè, la solita vecchia scusa che usi ogni volta. Quindi hai spaccato il cilindro. No, proprio non parte, non si accende, penso sia la candela. Io sono mortificato. Se ti si è spaccata la candela e i pezzetti sono andati dentro al cilindro, puoi pure buttare il motorino. No, bello, vabbè, grazie Prince. Sì, esatto. Grazie mille. Senti, invece ti chiamiamo anche per A-Team. Perché io devo andare ad aprire a un mio amico. Vabbè, proprio una radio di quartiere. Senti, invece A-Team, ti è piaciuto? A-Team? Esatto. Mi è piaciuto molto, l'ho anche scritto e qui sono perseguibile per legge. E perché ti è piaciuto? Vai, dilungati pure. Grazie, ragazzi. Prego. Allora, ho un discorso di 3 ore e mezza da fare su A-Team. Ma figurati, Faster è andato ad aprire la porta, quindi figurati. Allora, io non sono un fan della serie degli anni 80, dall'83 all'87. 4 anni, non sono un particolare fan. È un action movie che mi ha incuriosito molto, perché è, diciamo, c'è il gioco di squadra, che è una cosa molto che sta tornando di moda, da Bastardi senza gloria, Hurt Locker. Noi vediamo sempre molti film adesso dove c'è la squadra, una squadra di uomini che si vogliono bene e che combattono insieme per qualcosa che li è una. Allora, in A-Team c'è proprio una famiglia di maschietti dove c'è un po' mamma, ma state a ridere? Sì, ma per altri motivi. È esploso il pacco a basket? Ancora no. Vabbè, insomma, ci sono degli omoni che si vogliono tanto bene. Oddio, che è? Ci sono degli uomini che si vogliono bene. E c'è il governo degli Stati Uniti che fa schifo. E questi qua, che tra una coccola e l'altra tra loro, cercano di andare avanti seguendo una morale. E questo lo trovo anche bello in un film per ragazzini. Basta. Bene. Vabbè. Siccome tu. Che depressione. No, ma a me interessava una cosa sola, perché sapere se avevi visto sto greggio di Gune. Non l'hai visto. Non sai neanche chi è Gune, non sei un critico cinematografico. Ma io vi sento anche molto male. Il greggio di Gunei. Ilmaz Gunei, cineasta turco che era un eroe dei film d'azione, protagonista dei film d'azione turchi degli anni 60-70, e poi ha cominciato a fare il cineasta. Saramago? Non mi ricordo dove è morto. È finito in galera e ha diretto il gregge da dentro la galera. È una storia incredibile. Io l'ho dovuta studiare, perché anche a me mi pressava con questa storia del gregge, ed ho scoperto una storia incredibile. È evaso grazie a Volonté. Con la forza di Volonté. Esatto. Ma vattene, va. Chiamiamo l'altro critico, che è più serio. Senti, tu hai il numero di... Ce l'hai tu il numero? Facciamo il repeat su quello, no? No, perché il repeat c'è lui. Ah, ok. Mi puoi mandare un sms con i numeri di Boris? Io te lo mando? Sì, no, in diretta, sulla diretta, qui a Radio Rock. Va bene, ma non mi puoi dire nient'altro sui team. No, vai, se devi dire di... No, dai, è già tardi, ti parli te poi. Vabbè. Ragazzi, io vi bacio, vi abbraccio, vi mando l'SMS di Boris, che amo sempre. E la settimana prossima ci vediamo. Dai. Va bene, ciao, grazie. Baci. Ciao. Secondo me non è un critico questo. Adesso organizzo una proiezione di massa, io, Boris e Francesco del greggio di Gunei. Basta. È venuto il momento di confrontarsi. Dopo 10 minuti viene l'orchide. Io lo vidi negli anni, credo, non mi ricordo se 80. E mi sono dovuto drogare dopo un po', perché troppo. Comunque, vabbè, parliamo di altri film. Vai. Ah, qui mi chiedono cosa ne pensa Gabriele di Le Quattro Volte, ambientato in Calabria, uscito meno di un mese fa, credo. Grazie, ciao Daniela. Le Quattro Volte, sì, ne abbiamo parlato quando è uscito. È vero che è ambientato in Calabria, ma non è di un calabrese. Questa è una cosa sempre molto interessante. Ce n'era un'altra per te. C'era un'altra per me? Ed è un film bellissimo, bellissimo. Se potete recuperarlo, recuperatelo. È un film italiano molto strano, molto inusuale per essere italiano. E vale davvero la pena di essere visto. Qui c'è, stai ridendo per il messaggio su quello che Francesca ha detto di A-Team. L'ascoltatore vince perché è un film su King. Non ce la faccio più giù. Prego, andiamo avanti. Ma andiamo avanti. Non, per favore, non fate battute. Oggi sono particolarmente hilare. Ho notato che c'è tutta hilarità nell'aria. Oggi sono hilare. Allora, per smorzare ogni forma di hilarità, passiamo ad About Ellie. About Ellie è un film iraniano. Cioè, che voi già dite un film iraniano già deve essere, insomma, abbastanza pesante. Però questo no. Qua no, questo qui è un film iraniano ispirato a un film di Antonioni. Quindi proprio una sassata, esatto, proprio. Non siamo abbastanza pesanti, che possiamo fare? Un bel mattone, esatto, proprio. Ed è praticamente è ispirato all'avventura di Antonioni, quel film in cui Lea Massari scompare. Una delle protagoniste a un certo punto scompare, e questo fatto che una persona in un gruppo, cioè in un gruppo di persone, una scompare, scatena dubbi, fa emergere determinate pulsioni, insomma li mette in crisi, e questo essere messi in crisi in questo gruppo borghese li rivela per quello che sono, per semplificare ovviamente. È un film d'Antonioni, è un'esperienza, tra l'altro poi l'avventura è un'esperienza veramente visivamente è pazzesco. Comunque About Ellie quantomeno inizia così, inizia con la scomparsa di un membro di persone che sono andate in vacanza, e chiaramente però fa emergere poi altro. Il film, diciamo, si differenzia nella seconda parte, perché ciò che emerge sarà diverso, e come giusto che sia, appartiene più all'ambientazione iraniana, a quel tipo di idiosincrasia, a quel tipo di problemi, a quel tipo di cose. Tra l'altro qua, a differenza, se non sbaglio, dall'avventura di Antonioni, qua alla fine si scopre che fine ha fatto quella persona, se in realtà non c'è più, se se n'è andata, se è morta, si vedrà questo qui alla fine, e che anche è un'altra decisione abbastanza importante. Ed è un film diretto benissimo, infatti ha vinto un sacco di premi per la regia. Certo, è un film iraniano tratto da Antonioni, con tutto quello che ne consegue, però è scritto con, diciamo, con brio per essere un film di questo tipo. Giocatore a quattro mani oggi proprio alla grande, eh. È scritto con brio ed è, insomma, è... Ma c'era Tardelli. Un film sulla difensiva. E niente, per cui se vi piace più o meno questo tipo di cose, ma siete spaventati dalla noia, secondo me potete andarlo a vedere, perché in realtà poi non è molto noioso, è un film brioso, è un film che ha un sacco di... è scritto con una penna molto vivace e diretto veramente, veramente bene. Senti, l'amico tuo non ci ha mandato il numero, eh? Qui è un complotto. Secondo me ce l'hanno con te. No, secondo me siamo io e lui che stiamo censurando Boris. Io faccio finta e dico: no, non prende. Stiamo censurando così, Boris. Vero, questa è la verità. E la sua opinione contraria, che nessuno vuole far sentire su A-Team. Che solo Emilio ha il coraggio di far sentire. Vabbè, perché Emilio sta avanti, io. Trasmette la mattina più avanti. Salutiamo l'Emilio, ciao Emilio. Sì, no, dovremmo, a un certo punto dovremmo noi operare. Sai che dobbiamo fare un giorno? Il grande ci sorpasso. Ci scambiamo, io mi prendo Boris, oh, però io vai con Emilio. È vero, grandissimo. Però mi sa che Emilio ci perde. Scambio con... Ah, saremmo una grande coppia io e Emilio. Oppure noi potremmo sorpassarli e andare giovedì sera, andare prima noi, è una cosa totalmente inedita. Che vuol dire giovedì sera? Andare in onda giovedì sera e andare prima di noi. Ma i film escono il venerdì. Lo so, però tu li vedi prima. Esatto, prima, capito, vabbè. Fare qualsiasi cosa per andare prima. Vabbè. Da bella questa idea di scambiarci, però, eh. Eh sì, scambio coppie. Scambio coppie, sarebbe adesso, gliene parlo a Cicciubello. Guarda che potrebbero dare risultati esilaranti la cosa, eh. Lo so. A parte che comunque non so come faccia Boris, ma mi dovrei svegliare alle 6 io. Perché ancora... è vero, alle 7, quando... Che miseria. Vi do andare in onda. Però per andare in diretta con Emilio potresti pure fare. Sì, in effetti sì, in effetti sì, potrei. Sono disposto. Va una volta comunque, cioè un esperimento. bisogna vedere. Ma non peraltro, è che svegliasse alle 6, non è se quello. Se ti ammollo ad Emilio io mi prendo Boris. Che è più accreditato di te. Vabbè, vabbè, nel senso stretto della parola, viene accreditato a più festival di me. Questa è nel senso stretto della parola. Ma tu sei stato a Cannes? Quest'anno poi sono stato a Cannes. Quest'anno, esatto. Ci siamo incontrati tutti a Cannes. Vabbè, che fa bene? Che fai io? Grazie. Questa settimana esce un altro film molto divertente, molto carino, molto spensierato, molto commedia americana da ridere, che si chiama Lei è troppo per me, e tira fuori un classico, un evergreen di quelli pazzeschi, cioè il ragazzo americano nerd un po' sfigato dal cuore d'oro, di cui a un certo punto inspiegabilmente si innamora una stupenda, una bellissima, una ragazza pazzesca. La pupa e il secchione. Praticamente la pupa e il secchione, praticamente quello. Bene. Solo che diciamo nella finzione del film lei si innamora realmente di questo ragazzo che, come spesso capita poi in questi film, è sfigato ma poi ha un capito, è ricco interiormente, bello dentro, mettiamola così. E il film genera tutti gli equivoci che si possono immaginare, da lei che lui che presenta lei ai suoi amici, che ovviamente rimangono distrutti dal fatto che lui sta con una come questa, lui che la porta in famiglia, oppure lui che incontra l'ex di lei, che è straordinario, bellissimo, è un uomo bellissimo, ricco di successo, invece lui fa... Ma età dei ragazzi dei due? 25-26, una cosa del genere. Come si chiama il film? Lei è troppo per me. Devo andarla a vedere perché devo imparare come fa. E brutto come me. Esatto. Ah, devo dire, fare una scena fenomenale alla fine sull'aereo, che è una cosa da impazzire, da ridere. Il resto del film è carino, non è una cosa trascendentale, è un film caruccio, come ve lo potete immaginare, diretto con gusto, e c'è un bravissimo Jay Baruchel, che è questo attore che fa lo sfigato, è molto bravo, molto telegrafico. The Room Diary. The Room Diary. Dove lo vedi? Johnny Depp. No, hai voglia? No, no, questa è in uscita da una vita. L'imbroglio nel suolo. Ok, non l'ho visto l'imbroglio nel suolo. Va bene, non l'ho visto. Va bene, esce questa settimana ma non l'ho visto. Vabbè, vabbè. Altri film, forza. Basta, basta, il livello, basta. Il livello si abbassa. Questi ho visto. La tensione si abbassa. Questi ho visto. C'è poco da dire. Ma c'è la televisione, non dimentichiamo. C'è la televisione. Prego, prego, prego. Allora, perché, come diciamo ogni anno, arriva l'estate, aumentano i film in televisione. Sì, perché non ci sono più le trasmissioni, esatto, quelle seriali, eccetera. Per cui ci c'è un'offerta pazzesca per tutti i gusti. Innanzitutto, subito, mi raccomando, carta e penna, perché questo, quando io lo dirò, vi rimpiangerete di non aver preso carta e penna per segnarvelo e registrarlo. Perché c'è chi film, anche della buona memoria. Sì, per carità. È un film di cui io avrò parlato 80.000 volte, però finalmente lo fanno in televisione, lo si può vedere. Ed è Gli eroi della domenica. Io ne parlo sempre perché, secondo me, a mio modestissimo parere, è... Ma con Franco Interlenghi? Esatto. No, no, con Marcello Mastroianni e Raff Vallone. È, secondo me, il miglior film sul calcio mai fatto in Italia. Senza alcuna ombra di dubbio, è uno dei pochissimi in cui ci sono vere, serie scene di calcio. Perché poi solitamente noi facciamo film sul calcio dietro le quinte, sul potere, sulle squadre, i club. Mentre invece questo qui è un film bellissimo di Mario Camerini sul mondo del calcio degli anni 50, ovviamente, perché è un film degli anni 50. Ma è sorprendente come poi è ripreso in maniera moderna. Perché poi il calcio è uno sport difficile da riprendere, specie per i problemi di riempire gli stadi e tutto quanto. Ma questo film è bellissimo. Lo fanno lunedì notte su Rete 4 alle 3:10 del mattino di martedì, quindi lunedì sera, martedì mattina, 3:10, Rete 4, Gli eroi della domenica. Bellissimo. Tra l'altro poi Raff Vallone, protagonista, era cacciatore prima dal calcio, però infatti si vede che c'ha un piede delicato, c'ha un bel tocco. Sì, è vero, ricordo. E c'è il Milan di Lidlm, Nordahl, esatto. Madonna, esatto. Bellissimo. Perché è la storia di una partita, e la partita è tra questa squadra immaginaria nella quale gioca il protagonista, che è Raff Vallone, e il Milan. Bellissimo. Filmone. Senti, allora niente. Secondo me è invidioso. È censura, invidioso. È censura. Stiamo censurando l'opinione contraria alla nostra. Questa è come facciamo sempre del resto. Che è la cosa, capito, che ci fa l'ascesa al nostro successo. Niente. Poi. Ma non è che l'ha mandato sul tuo? Ma io è spento. Cioè, è spento, non è scarico. Cellulare scarico. Hai per caso un caricabatteria, scusa. Nokia. Tu che passi qui per caso. Lei che passa qui. Hai un carico batteria. Niente. Domenica. Domenica, è sempre domenica. Domenica, ore 19:20 su Italia 1, fanno un film che magari non tutti hanno visto, film recente, eh? Si chiama L'Uomo Perfetto. È una commedia italiana degli ultimi, se non mi ricordo male, di 3-4 anni fa, forse anche 5. Molto carina, è veramente un film, io lo consiglio perché è un film spensierato, divertente, un po' romantico perché con Scamarcio, ma è sorprendente per come sembri americano, cioè spesso diciamo noi questi film americani che magari non si inventano niente, però diciamo però che professionalità questi americani, è tutto perfetto, gli attori sono bravi, anche in queste cretinate la regia è perfetta, Questo è un film italiano così, un film leggero, disimpegnato, ma fatto perfettamente. È rigoroso quanto il cinema neorealista, come rigore, come messa in scena perfetta, controllata. È di Luca Lucini, che è un maestro a fare queste cose, un grandissimo regista, purtroppo sottovalutato. E niente, ve lo consiglio, ripeto, è domenica 19:20, Italia 1. Adesso ti metto in imbarazzo, in crisi. Ecco, lo sapevo. Sapevi che stanno uscendo i film in 3D senza occhialini? Secondo me no. Cioè, io posso mi posso freggiare. Lo scrive Margherita. No. Lo so. Infatti chiedo a Margherita di argomentare meglio, perché io so che assolutamente il 3D senza occhialini cinematografico è lontano anni luce. Il 3D senza occhiali esiste, ma è per dispositivi che possono essere guardati da una persona sola. Per esempio, il nuovo Nintendo portatile, la console di videogiochi portatile, ha il 3D senza occhiali, perché ha una piccola telecamera che ti inquadra e capisce dove stai guardando. Quindi, sapendo dov'è direzionato il tuo sguardo, può fare l'effetto 3D. Il problema del cinema è che non solo non sai mai dove stai guardando, ma poi tutti quanti dove stanno guardando. E quindi questo è il motivo per cui con la tecnologia di oggi il 3D senza occhiali non è possibile. Si sta lavorando chiaramente per superare questa barriera. Per questo mi viene da dire che assolutamente non mi sembra possibile la cosa, però appunto, se ha qualche notizia che io non ho... Qui mi chiedono di... Chiashan la rinascita, che era un film di 3-4 anni fa. A me non è piaciuto, te lo dico. Ma almeno proprio non mi è piaciuto. Ah, ecco, Boris stesso ci ha dato i suoi numeri, ecco. Ah, noi stupidi che non abbiamo visto. Al volo, vai. Noi che infamavamo subito pronti. Allora, ti chiamiamo a casa, fisso, eh. Vai. Proprio per star di dentro noi. Scritto su Skype addirittura, capito? Terribile. Lui sì che sta avanti. Ma non risponde. Squilla, adesso risponderà. Mamma. Pronto, cercavo Boris. Passami Boris. Passami il capo. Dice che non c'è. Vabbè, se non c'è niente, prendiamo sul cellulare. Chi era, okay, moglie? Grazie. Chi era la moglie? Non so, è una ragazza anche gentile, mi dato lei. Vediamo sul cellulare. C'è veramente uno sketch incredibile questo che stiamo facendo. Ecco, ora ti mandiamo in onda. Ripeto, si è sganciato. Accidenti, guarda, è una pantomima questa volta. C'è una pantomima incredibile. Sembra che stiamo facendo apposta, in realtà no. Scusa, è caduta la linea. Pronto? Eccoci. Ma l'hai visto il gregge di Cuney? Il? Non c'è. Questa è una fissa di Faster che chiede a tutti e nessuno l'ha mai visto questo film. Si chiama Il Gregge di che è di Yilmaz Guney. No, mai non visto. Tipo, non l'ha visto nemmeno Alò. Cioè, dico, siete tre pippe. Siamo tre pippe. Ma questo non ci voleva Prince Faster per dirlo. Allora, per la serie Diritto di Replica, abbiamo Boris Sollazzo su A-Team, che io e Francesco, di cui io e Francesco abbiamo parlato bene. Invece sappiamo, a te non è piaciuto, vai. Ma il motivo per cui ne avete parlato bene è che il vostro voto è 4 e sommato fa 8. No, io l'ho trovato imbarazzante, devo dire. Uno, perché una puntata di A-Team, anzi anche 2-3, e ve lo dico io che quando sono rimasto ricoverato ne prendevo a mazzi la mattina di puntate di A-Team, mi divertivano ogni secondo, e qui per trovare la prima battuta che mi ha fatto ridere ho dovuto aspettare il controllo passaporti. No, io ho riso tantissimo. Sì. No, io per niente. Controllo passaporti, devo dire, di quello che ha preso il posto di Mr. T, Quentin Johnson, se non sbaglio. Quentin Rampage Johnson, sì. E l'altro, appunto, Charlton Copley, che è un ottimo Murdock, ma sottoutilizzato, come Bradley Cooper, che è un ottimo Sberla, ma sottoutilizzato. Veramente, cioè, non rido fino a quel momento. Poi sorbirmi un antefatto di un'ora e un quarto, solo perché tu pensi di fare altri quattro capitoli e non ne farai neanche uno, molto probabilmente. È un'altra cosa che sopporto pochissimo. Per il resto, cioè, il telefilm era naif, ingenuo, sopra le righe, qui addirittura. E qui sopra le righe lo è pure questo, possiamo dire. Ma quando mai? Cioè, sopra le righe nel senso proprio che è al di là della vergogna. Cioè, quando Mr. T, poi è blasfemo chiamarlo Mr. quando T. Quando Baracus. Sì, quel Baracus che, insomma, tra l'altro imita nella pettinatura Samuel Jackson quando era di galera. Ah, sì, è vero, sì. Cioè, voglio dire, quando cita Gandhi, a quel punto vorresti sparare direttamente. Allora, su questo posso concordare. Cioè, quindi in effetti una cosa che non è piaciuta anche a me del film è quel momento in cui cominciano a parlare del senso della violenza citando Gandhi, no? Quello è abbastanza ridicolo. Però il resto, cioè, mi è piaciuto. Sberla che mette la testa a posto, capito? Cioè, poi ditemi adesso anche a voi che è piaciuto. Chi crede a Liam Neeson come il colonnello Hannibal? Ma guarda, allora, su questa cosa io ero d'accordo con te. Cioè, che mi sembravano poco credibili un po' tutti gli attori in testa a tutti Liam Neeson. Eppure, secondo me, poi alla fine funziona nel film, incredibilmente. Ma io no, invece lui è proprio, secondo me, ciò che scardina tutta l'operazione di team, perché proprio non riesce a credergli neanche un momento, non c'ha quel carisma alla Cesare Cadeo di insomma. Cioè, non c'è paragone, non lo so, io sono rimasto molto deluso. Poi sarà pure che la Slovenia ha subito il pareggio negli ultimi minuti, ha influito molto questo. Però voglio dire, veramente, non lo so, davvero, io vi stimo, vi voglio bene, vi trovo anche dei bravi critici. Sta arrivando un ma? Stai per dire ma? È arrivato il ma. No, voi che siete più bravi di me, invece, una domanda, ma il ma io non c'entro niente! Boris, è io... quello che faceva il maggiore Boris, telefilm. Boris. Sì. Io non c'entro niente, io il film non l'ho visto e poi non sono un critico. Io no, sono ma perché? Me la sono presa con te? Sì, io sono uno che sta qua per caso, perché c'è lui che parla. I microfoni sono aperti. Ma io non c'entro niente. Però ce l'ho con te e con tutti gli altri due. Perché non avete visto il gregge di Cuney? Ma io farò una proiezione. Farò una proiezione di massa. È giustissimo che tu ti sei arrabbiato, insomma. Io sono abituato a non far finta di aver visto dei film, perché una volta proprio a Radio Rock mi capitò uno che si inventò un titolo e io dissi: mi dispiace, non l'ho visto. Aveva detto che era di Tarkovsky e io ammetto che non ho visto tutto Tarkovsky, però addirittura non conoscerlo era una cosa che mi distruggeva nello spazio con Emilio, e quindi mi scusai con gli ascoltatori per non aver visto questo capolavoro di Tarkovsky l'ascoltatore, dopo 10 minuti, vedendo che io ero sull'orlo delle lacrime, disse: non ti preoccupare, me lo sono inventato. Allora, a scanso di equivoci, se te lo sei inventato, non voglio proprio fare questa figuraccia. No, ma puoi stare tranquillo, perché neanche l'enciclopedia del cinema vivente, che è Alone, aveva mai sentito parlare. Per cui, insomma, no, questo ci conforta tutti. Ci insegna che c'è un numero di Empire straordinario, me l'ha raccontato proprio lui, dove ci sono i critici che ammettono i loro buchi. Cioè, un bravo critico ha dei grandi buchi. È che in Italia non ci ammettono. No, tranne Enrico Ghezzi, che una volta ha ammesso di aver recensito un film dicendo che era in bianco e nero, invece era a colori. Una cosa, un errore allucinante. Però quello è Ghezzi. Francesco, poi abbiamo... C'è una critica della stampa che ha detto a Torino: peccato per la versione doppiata ed era sottotitolata. Allora, qui abbiamo fatto una proposta, abbiamo lanciato una proposta. Diamo Vasquez a Emilio per un giorno e tu vieni con me per un giorno la sera. Scambismo, praticamente. Però io, come in ogni bella coppia di scambisti, è sempre mio marito che decide, quindi mettetevi d'accordo. Io già ho le mie perplessità sullo svegliarmi presto la mattina. Non so tu come faccia, ma io sono molto perplesso su questa cosa. Lo so, no, lo immagino, però non so, possiamo anche fare tutti e quattro, cioè o lo scambismo addirittura l'orgia, se vogliamo. Io sono per l'orgia, perché nella quantità non si nota la mia scarsa qualità. Secondo me viene fuori un caos senza precedenti tutti e quattro. Ah, un momento altissimo, però, di radio. Però va bene, perché questa radio è vicina al caos. Noi facciamo sempre l'ira di Dio, lo schifo totale. Bene. Mi piace. Un po' come ai team, no? Che l'unica cosa che accetta è che è caos assoluto. Va bene. Che bello caos. Sentire Boris in serata. Ecco, ci ha detto pure le parolacce. Ecco, guarda, cioè, ho detto testa di caos. Sei riuscito anche a attirare i tuoi fan. Solo la mattina. Sei riuscito anche a attirare i tuoi fan nello spazio mio. Spero che tu sia contento, Ma guardate, io ho fatto di tutto. Mi si sono scaricate le batterie quando mi avete chiamato. Non ho sbagliato a darvi il numero. Vi ho dato il numero della vecchia casa e voi mi avete voluto chiamare lo stesso. Io che devo fare, insomma. Infatti noi ti abbiamo infamato mentre tu non rispondevi, sostenendo che non volevi rispondere apposta. Altrimenti io sto facendo la spesa. Quando mi è caduta la linea, proprio perché dico: adesso mi infameranno, diranno sì, che... Sì, ovviamente. Con le borse della spesa ancora zoppicante sono dovuto tornare di fretta a casa. Scena orrenda. Una scena bruttissima. La mia vicina di casa, una signora anziana anche, mi ha addirittura aiutato a portare l'acqua. Cioè una cosa un po' umiliante, devo dire. Senti, ma a casa vecchia chi ha risposto? Perché a me mi ha risposto una ragazza. Mia sorella, perché mi ha dato il numero di dove vivevo prima. In completa... È stata gentile. Mi ha dato il cervello, perché avevo fatto i piani. Tutto quanto, mi ha dato il numero di casa precedente. Mi ha dato anche del lei. Senti, ma qui chiede Faster, se è carina. E tu ci hai anche provato, tra l'altro. Sì, la chiede se è ma carina. Tu ci hai provato. Ma gli ho detto: ah, se Boris non c'è, comunque io posso passare. Ma che magliare. Vabbè. Grazie, Boris. Un saluto, un abbraccio. Fatemi dire Pappagallo Rock, però. Se lo dice Remore Motti alla 7, mi sembra giusto dirlo pure io. Va bene, un saluto. Un abbraccio. Ciao, grazie. Hanno messo tutti in ombra, sia sul Lazio che... Però nessuno aveva visto Grecia di Cuney. Nessuno ha visto. E io sono l'unico che si è documentato. Chissà se esiste in videocassetta, in CD. Cerco su internet di comprarlo. Ah certo, di comprarlo. Certo. Che altro. Va bene, grazie Vasquez. Non so se volevi aggiungere dell'altro. Io dovrei andare alla spiaggetta. Ma segnalo due cose mangiare rapide. Una cosa. Pizzichi. Poi... Sì. Segnalo una cosa rapida perché... Qua. Da quando è morto Michael Jackson non hanno ancora mai rifatto questo film. Adesso è la prima volta che finalmente lo fanno in televisione, quindi vale la pena segnalarlo. Mercoledì alle 21.10 su Italia 1 fanno Moonwalker. Era un film stranissimo per l'epoca, che non si è più visto e che io personalmente sono curiosissimo di rivedere. E che niente, che lo rifanno appunto mercoledì 21.10 Italia 1. Diamo il numero di Boris in diretta, vai. No, diamo quello di casa vecchia. Cioè, è vero. Sei sempre il più bastardo. Grazie a tutte e a tutti. Ci vediamo per chi verrà a trovarci questa sera alla spiaggetta di Ostia. E ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie il suo. Grazie, ciao. Ciao. A lunedì.